Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sono un trentenne cresciuto con la generazione robotica, fra virgolette. Devo dire che mi manca tanto quel tipo di cartoni animati, come, non so, anche Capitan Harlock, in cui c'erano valori come coraggio, onestà, onore, rispetto per il nemico. Mi sono veramente ricordata dei cartoni che guardavo quando ero piccola e mi sarebbe piaciuto se tu avessi parlato, se avrai occasione, se parlerai, del cartone di Creamy, che raccontava di Yu, la bambina, che ogni tanto poteva trasformarsi nella magica Creamy. Ma tu vuoi scherzare? Io, chi è che non ricorda Goldrake la prima volta che l'hanno trasmesso alla Rai? Per me è stata una cosa, era una cosa pazzesca. Cioè, io ho guardato alla televisione anche, solo i cartoni animati. Anche quest'anno non ho resistito a parlare di Giappone, ma non perché abbia una particolare predilezione o spiccata attitudine nel conoscere la cultura, la storia del Giappone. No, perché mi meraviglio ancora che venga considerato un fenomeno di nicchia, qualcosa che appartiene a piccole porzioni di umanità, alle nostre latitudini sto intendendo, la passione profonda per tutto ciò che proviene dal Giappone, che è passato attraverso, forse con molta inconsapevolezza da parte nostra, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la televisione, le prime televisioni commerciali degli anni Ottanta, poi la televisione pubblica, poi attraverso varie forme di strumenti per uscire dalla realtà, vuoi strumenti per ascoltare musica, tecnologia per ascoltare musica, portarsi dietro musica, vuoi tecnologia per giocare, per entrare in maniera immersiva in ambienti fantastici. Beh, il Giappone ha profondamente segnato la nostra generazione, le generazioni sono venute dopo in maniera ancora più precipua, ancora più fondamentale. Il Giappone oggi è una delle principali fonti di ispirazione e di immaginario di una generazione che va dai quindicenni a 18, 20 anni, fino all'età che verranno dopo. Perché? Perché? Perché il Giappone, bene o male, noi non ce ne siamo veramente molto accorti in maniera lucida, ha fatto filtrare verso di noi tutto un universo che forse avevamo dimenticati, il nostro immaginario, la nostra cultura, e quelle che erano le pietre miliari su cui si formavano comunque le più giovani generazioni attraverso il racconto, la favola, il fumetto, l'immaginario in generale, sono state fortemente connotate dal Giappone. Io, alla mia età di cinquantenne, ultra cinquantenne, ancora appartengo a quelli che avevano forte la censura nei confronti di ciò che veniva dal Giappone. Si diceva i fumetti, i cartoni animati, soprattutto i cartoni animati giapponesi, i primi cartoni animati che si erano nelle piccole TV commerciali, venivano passati come cartoni animati molte volte per bambini, ma in realtà erano delle storie raccontate da adulti per adulti. Veniva detto in maniera molto sommaria, molto, molto superficiale, questi brutti cartoni animati fatti con il computer, guardate i veri vecchi antichi cartoni da Disney. Beh, quanto c'era di arraffazzonato, di superficiale, di poco profondamente elaborato in questa frase, lo capiremo nella puntata di questa mattina. È uscito in questi giorni un libro molto interessante che in realtà è il compendio di tutto quello che noi abbiamo assorbito o abbiamo più consapevolmente usato come punto di partenza per dei nostri interessi, per dei nostri approfondimenti, o non sapevamo che esistesse prima della nostra esperienza televisiva. Avete sentito un pezzetto dei cartoni animati dei robot che tanto appassionavano le generazioni, quelli che oggi hanno 30 anni, 40 anni. È Storia dell'animazione giapponese per l'editore Tunue, uscito da proprio da poco tempo, che è un saggio corposo che racconta tutti gli autori, l'arte, l'industria, i successi dal 1917 a oggi. L'autore è Guido Tavassi. Tavassi, buongiorno. Buongiorno a voi. c'è molto di più rispetto a quello che noi ricordiamo nella nostra esperienza televisiva, e i nostri figli oggi fanno come materia prima del loro tempo libero, non soltanto il loro tempo libero. Ha una storia abbastanza antica la storia dell'animazione giapponese, questo a onta dei nostri genitori, i nostri nonni, che dicevano: ah, quei brutti cartoni animati fatti con il computer. Ecco, vogliamo cominciare a rettificare questo pregiudizio innanzitutto? Ma la storia dell'animazione industriale fatta col computer, senza anima, ripetitiva, è una storia vecchia su cui hanno scritto sicuramente molto meglio di me da tempo altri autori. È vero che noi abbiamo sempre fatto dei paragoni impropri da questo punto di vista, perché si parlava di Disney ma si dimenticava del fatto che si pensava a dei lungometraggi cinematografici e li si paragonava a un'animazione fatta per la televisione, quindi chiaramente con metodologie, tempi, risorse completamente diverse, insomma si paragonavano oggetti incomparabili. Ma come mai, scusi Tavassi, sì. Nonostante questo, nonostante la presupposta che poi noi non la percepiamo tanto, scarsa qualità nella confezione, sono rimasti così profondamente impressi nella memoria di generazioni e generazioni, anche partendo proprio dai più semplici, partiamo dai cartoni animati dei grandi robot. Cosa volevano rappresentare? Cosa c'era dietro? Ma premesso che c'è, insomma, la cultura giapponese ha un rapporto particolare con tutto ciò che riproduce l'essere umano, le bambole, i meccanismi, hanno una particolare attenzione e predilezione per questo tipo di artefatti. In realtà lì c'era molto di più, in quelle serie ci sono argomenti, ci sono temi che generalmente non vengono riservati a un pubblico di ragazzini, di adolescenti, sono storie molto più complesse, sono molto più interessanti e quindi avvincenti. Quelle storie veicolano in realtà tutta una serie di relazioni tra padre e figlio, tra il bambino e la scuola, tra gli stessi bambini, il rapporto dei genitori, che facevano di noi spettatori piccolini negli anni 70, io sono del 69, quindi diciamo sono della prima generazione del primo impatto dell'animazione giapponese, veicolavano storie che erano molto più interessanti di quelle che all'epoca ci riservavano le serie animate americane. Quello che non capirono i produttori italiani, che in realtà molte volte li spezzettarono, ne fecero abbastanza scempio, che in realtà sì, erano storie con una complessità e con un portato nascosto molto più profondo che dei riempitivi per televisioni commerciali mandati ripetutamente. Ma noi partiamo per esempio da un dato che molti trascurano: le serie in Giappone sono fatte per essere programmate una volta alla settimana, cioè l'episodio viene trasmesso settimanalmente e dura, ad esempio per intenderci, 13, 26, 39 o 52 episodi, che sono le settimane dell'anno e li divise in quattro stagioni. In Italia sono arrivati in massa centinaia, sono state importate centinaia di serie, perché all'epoca costavano poco e perché i giapponesi, diciamo, non avevano molto interesse all'esportazione in quella fase storica, e venivano programmate quotidianamente. Da qui anche il problema della ripetitività, del bombardamento, ma in realtà è un problema che è nato tutto qui, da programmazione. Uno sbaglio, una superficialità nel programmarle, non se ne colse il senso profondo. Dunque, questo libro di cui stiamo parlando ha un saggio anche di Marco Pellitteri, che è il direttore scientifico delle edizioni Tunue, è un sociologo dei media. Pellitteri, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, Pellitteri, io vorrei capire, vediamo di capire l'impatto, così cominciamo a raccontare una storia e poi arriviamo ai giorni nostri, ai tempi nostri, ai cosplayer che invadono le città d'Italia e tutti si meravigliano da dove vengono fuori. Centinaia, se non migliaia di ragazzi di tutte le realtà sociali che vengono sia dalle borgate che dai quartieri alti delle città, che si immedesimano nei personaggi delle serie animate giapponesi, si vestono e fanno dei grandi raduni e tutti, nessuno si immaginava che potessero esistere, che fosse così profonda il trapelare, il tracimare di questa cultura. Mettiamo le nostre due culture a confronto. C'è una generazione di ragazzi che ha cominciato a sapere dell'esistenza di classici della letteratura prettamente occidentale, europea, diciamo più precisamente, attraverso la rilettura che ne hanno fatto i giapponesi. Questa è la singolarità. Sì, c'è un profondo, come è stato detto più volte, un cortocircuito culturale che interessa tutta questa dinamica che si è venuta a creare negli anni, a partire appunto dalla semplice, tra virgolette, fruizione degli anime in televisione alla rielaborazione di questo immaginario in pratiche sociali che, come lei ha detto benissimo, sono trasversali da un punto di vista, se vogliamo dire, diciamo, di classe, ed è un tipo di pratica, anzi una costellazione di pratiche talmente sane, come ho avuto modo di scrivere, che interessano o hanno interessato fino adesso abbastanza poco i media generalisti, la grande stampa, perché fanno notizia fino a un certo punto, diciamo, sono più che altro, come dire, folklore urbano, ma si sono rivelate anche nelle ricerche di settore delle pratiche, dei processi di socializzazione estremamente solidi per una o due generazioni di adolescenti o post-adolescenti, a questo punto anche persone in piena fase adulta. Sì, perché poi gli anni passano presto. Io questa mattina vorrei dare qualche palpito di ricordo e nostalgia per gli adulti che ci ascoltano, dare qualche segnalazione, perché, come ha detto giustamente in questo momento Pellitteri, di queste pratiche, di questa passione che ormai è dilagante, i media se ne occupano soltanto quando qualche giornalista, come il sottoscritto, ha figli che improvvisamente trova appassionati di un universo che non corrisponde agli universi che normalmente, la normale passaggio di testimone dell'immaginario, non apparteneva alla generazione precedente. Io sono cresciuto sui libri, sui fumetti, che erano di mio padre, forse in parte anche di mio nonno. No, mio figlio no, fa un salto totalmente, radicalmente trasversale. L'autunno stava ormai per finire e l'inverno bussava alle porte. Adesso, quando Heidi la mattina si alzava e andava al pozzo per lavarsi, l'acqua era gelida. Ah, che freddo! Strofinati forte, fa bene. Non posso farci niente. Mi piace di più l'estate. Ah! Il vento non ti porterà via. Ecco, Tavassi, ci siamo accorti soltanto tanti anni dopo che Heidi, quel cartoncino animato che guardavamo sorridendo, ci sembrava una bazzecola, però era firmato dal grande maestro Miyazaki, che è quello che oggi è molto più conosciuto perché i suoi film hanno finalmente sfondato, anche se arrivati con decenni di ritardo, la barriera dell'indifferenza. Cosa significò Heidi nella nostra cultura in quegli anni? Cosa c'era dietro? Ma in realtà vorrei anche precisare che dietro Heidi, più che Miyazaki, che all'epoca era molto giovane, c'è il genio di un autore un po' meno conosciuto, che è Isao Takahata, che è un sodale e compagno d'avventure di Miyazaki, che insieme a lui ha fondato poi lo studio Ghibli, che ne fu il regista. In realtà Heidi è un episodio, non dico anomalo, ma che si inserisce in un filone particolare dell'animazione commerciale giapponese, che riguarda proprio specificamente l'adattamento di capolavori della letteratura mondiale per ragazzi, soprattutto occidentale. In effetti questo è il motivo per cui fu una sorta di passepartout dell'animazione giapponese televisiva qui da noi in Italia e in altri paesi europei. Quali erano altri esempi, per capire? Mi viene in mente Anna dai capelli rossi. Ma per esempio, un altro esempio perfetto, e tra l'altro dello stesso Takahata, ma anche Remy senza famiglia, Remy, per dirne un altro, e se rimanere a quelli degli anni 70-80, ma è tutto un filone che conta decine di serie che hanno adattato classici della letteratura occidentale, anche Mark Twain, anche moltissimi altri, e autori meno conosciuti, cosa che testimonia tra l'altro un interesse vivo anche da parte dei giapponesi per la cultura occidentale, per la letteratura occidentale. Anche perché, intendiamoci, noi pensiamo che questo tipo di serie fossero state create per, in qualche modo, venire incontro al pubblico occidentale. In realtà è il contrario. Queste serie furono considerate, questi soggetti, per essere diffusi presso il pubblico giapponese, dai giapponesi. Cioè venivano presi questi classici occidentali, venivano adattati, venivano proposti al pubblico e alla platea nipponica. Il fatto che poi siano rimbalzati da noi è stato forse più un incidente, una casualità. Ma trovo che sia un grosso e fantastico paradosso, che generazioni hanno avuto sentore in anni in cui, diciamo che l'attitudine generale era di ben altra cifra, sentore di classici della letteratura infantile propriamente occidentale, attraverso la rilettura che l'hanno fatto i giapponesi per propagarla a loro volta per i loro ragazzi. Quindi di seconda mano ci è arrivato fortunatamente qualcosa che ci ha permesso di accedere a universi, ma c'era un grosso pregiudizio, nessuno fine anni 70, primi anni 80 avrebbe proposto a un figlio un libro che parlasse di orfanelle o di giovinette abbandonate, via dicendo. Era politicamente scorrettissimo solo pensarlo. Zoe Lacchei, buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto sentiamo Anna dai capelli rossi, perché l'abbiamo citata, è giusto che introduca Zoe Lacchei. Conosciuto l'esito degli esami, Anna godette le più belle vacanze della sua vita, sempre insieme a Diana. Ma un giorno accadde un fatto imprevisto. Oh, salve Anna. Buongiorno signora Lind, vieni Diana. Scusate il disturbo, buongiorno. Anna, proprio te stavo cercando. Hai saputo, vero, dell'ospedale di Charlottetown? Sì. Gli ospiti del White Sand Hotel hanno deciso di organizzare uno spettacolo a favore dell'ospedale e stanno battendo tutta la zona alla ricerca di dilettanti con un po' di talento. Ci crederesti? Anna dai capelli rossi va, vola e va come una rondine, per un dito... Zoe Lacchei, che è un'artista, una disegnatrice, una pittrice, trovate le sue opere al suo indirizzo web www.zoelacchei.com. È probabilmente cresciuta in questo immaginario, e questo immaginario non l'ha abbandonato, ha continuato a diventare la fonte ispiratrice della sua professione, del suo lavoro quotidiano. Tu sei cresciuta davanti a questi cartoni, Zoe? Sì, assolutamente sì, e assolutamente di contrabbando, visto che mia madre era di quella scuola di pensiero che i cartoni animati giapponesi fossero troppo violenti per insegnarmi qualcosa, e quindi era sempre il gusto del proibito poterli vedere di nascosto a casa, però sì, mi hanno condizionato e condizionano tutt'oggi tutta la mia vita, perché mia madre pensò che fosse solo un momento passeggero della mia infanzia, poi invece adesso si ritrova una figlia che ha abbondantemente superato i 30 e che a casa è disseminata di action figure, fumetti, DVD. Ecco, però spiegami adesso l'evoluzione, perché non sei più una bambina, e se si guardano i tuoi quadri, le tue opere, non si vede certo Anna dai capelli rossi, si vedono fanciulle molto sensuali, anche discinte, che si abbracciano con mostri, con grossi topi di fogna, con animali fantastici. Qual è il filone esattamente che stai percorrendo adesso? Per far capire come poi questa cultura ha un'infinità di propaggini molto misteriose, molto difficili da decifrare, tra l'altro. Ma la cosa che sin da subito ha sempre affascinato sia me che anche i cultori dell'animazione giapponese al momento era il profondo impegno che c'era dietro ogni opera, non solo parlo proprio di impegno tecnico, ma soprattutto impegno a voler insegnare qualcosa. Noi da piccoli abbiamo vissuto la superficialità dei prodotti Disney, che spesso e volentieri avevano sempre quelle trame trite e ritrite che alla fine non ti insegnavano niente. La cosa distintiva di qualunque opera di animazione giapponese, che fosse un lungometraggio, che fosse una serie animata, era appunto l'intento di far crescere l'individuo, di fargli porre delle domande, di farlo crescere emotivamente. Tu pensa, noi siamo cresciuti, Zoe, in famiglie reali in cui non c'era papà e mamma, ma c'erano degli zii. Esatto. E invece ci proponevano delle storie molto complesse, questo tipo di letteratura, in cui non soltanto c'erano genitori, ma c'erano anche figure parallele, professori di scuola, tutori, insegnanti, allenatori sportivi, con tutta una complessità di rapporti che i ragazzi conoscevano, anche degli aspetti più crudi, degli aspetti più problematici. Assolutamente, ma la cosa che più a me personalmente affascinava era il concetto del sacrificio, che è una cosa che è da sempre presente in qualunque tipo di prodotto culturale giapponese, perché il sacrificio vuol dire la consapevolezza di sé, dei propri limiti, di quanto i propri intenti siano reali. Erano lezioni di filosofia. Questa è stata una delle cose che è stata più sottovalutata nel mondo occidentale, perché ne vedevano soltanto questo aspetto violento, ma in realtà la violenza fa parte della vita, il proprio sacrificio fa parte della vita, il perdere qualcuno che si è sacrificato al tuo posto fa parte della vita. E da qui, per quanto mi riguarda, la mia sono stata influenzata, nel senso che ho sempre avuto una forte fascinazione per tutto ciò che impone il fermarsi e il ragionare. C'è un aspetto, è inutile negarlo, che è molto poco conosciuto, figurati, ancora stiamo a ragionare sui preti che mettono sulla porta della chiesa i proclami sulle donne massacrate, che è colpa loro, figurati se possiamo capire la sottigliezza dei rapporti anche nel filone erotico giapponese, che è fatto di ambiguità, è fatto di cenni, è fatto di cose molto difficili da comprendere. Ecco, crescendo adesso cosa hai capito da questo? Ma ho capito che non è l'interpretazione ai nostri occhi rispetto a quella che poi la cultura giapponese è estremamente difficile, perché il mondo giapponese è proprio un pianeta a parte, e quindi l'immersione in quel mondo implica quasi il voler dimenticare quella che è la nostra cultura, che io personalmente detesto, quindi comunque siamo a posto. Quindi si fa un reset totale che non ha fatto mai nessuna rivoluzione culturale, almeno nel nostro paese, almeno nella nostra civiltà, sempre tornati sui passi alla fine precedenti, lo vediamo mentre stiamo passando. In realtà l'immersione nell'immaginario giapponese, negli input, poi capiremo cosa c'è dietro, che vengono dal Giappone, sta creando una generazione di ragazzini che sono totalmente diversi da quello che noi pensiamo assolutamente che essi siano. Ma ci fermiamo un istante, soltanto un minuto, poi riprendiamo con i nostri ospiti sul Giappone. Email melog@radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Devo riuscire a trasformarmi. Ma che sta succedendo? Per l'amor di Dio, rispondimi. Quel meteorite era un mostro Aniva. Lanciami i componenti, Miva. Ok, ricevuto. Gig robot d'acciaio. Lancio componenti, fuori. Contatto. Ti sto aspettando. Attacco, Yon. Stiamo parlando dell'animazione giapponese, ma ancora in maniera più vasta, dell'immaginario giapponese che lentamente nel corso degli ultimi decenni è trapelato nelle menti di varie generazioni, e oggi sta cominciando a dare i suoi frutti, sta cominciando ad esprimersi attraverso varie forme ancora non molto registrate dai media ufficiali di espressività. Lo facciamo in occasione dell'uscita di un poderoso compendio Storia dell'animazione giapponese, autori, arte, industria, successo, dal 1917 a oggi, uscito per le edizioni Tunue, dall'autore Guido Tavassi, con un saggio di Marco Pellitteri. Abbiamo risentito in apertura un altro piccola clip dedicata ai grandi robot della nostra fanciullezza, i robot che poi sono diventati Transformer, che sono stati un vastissimo merchandising, tutti li avevamo, tutti li abbiamo regalati ai figli, li abbiamo regalati ai nipoti, li abbiamo visti in varie mani, gli oggetti si trasformavano, la tecnologia mutante, qualcosa che è molto attuale, molto legato comunque a alcune domande, alcune risposte che si dà la scienza e la tecnologia, ma che allora ci sembravano qualcosa di totalmente fuori da ogni modello, sia di riferimento nel campo dei giocattoli, l'intrattenimento, ma anche nel mondo degli adulti. Fabio Bartoli, buongiorno. Buongiorno Gianluca, un saluto a tutti gli ascoltatori di Melog. Allora, Fabio Bartoli, anche lui è autore di vari saggi sui cartoni animati, sui manga per le edizioni Tunue, è in uscita un tuo nuovo libro per le edizioni K. Mi dici te che libro è? Sì, il libro si chiama Cartoon Heroes, gli artisti di 30 anni di sigle TV, e ripercorre la storia delle sigle per serie animate in Italia, ed è scritto insieme a Mirko Fabreschi, che tra l'altro è un professionista del settore, essendo il leader dei raggi fotonici, che lavorano da anni in questo campo. Di cintura fotonica l'abbiamo sentito parlare fino al 21 dicembre, poi per fortuna non c'era nessuna cintura fotonica. Però è bello come poi la scienza o la parascienza, perché alla fine è molto difficile quando viene divulgata ai media, si confonde molto con l'immaginario fiabesco delle fanciullezze. Ecco, innanzitutto parliamo delle sigle. Queste forme artistiche, letterarie ed espressive alle nostre latitudini sono arrivate con delle sigle, diciamo, che non davano ragione in realtà del loro vero contenuto. Chi erano a far da padroni nella produzione di queste sigle? Ma inizialmente il fenomeno delle sigle, per come si è sviluppato in Italia, ricalca quello che era il modello giapponese con delle sigle che tra l'altro erano degli ottimi singoli per il mercato discografico. In Italia abbiamo ripercorso questo stesso modello, tra l'altro vantando su una tradizione per quanto riguarda la canzone per ragazzi molto consolidata, pensiamo allo Zecchino d'Oro, a tanti altri. Sì, c'era tanta Cristina D'Avena, tanto Zecchino d'Oro, tanti Bambini dell'Antoniano, queste cose qua. Esatto, e quando sono arrivati i primi cartoni giapponesi, si sono iniziate a produrre, soprattutto grazie all'RCA, le prime sigle. Magari all'inizio c'era un po' di scetticismo, ma poi avendo visto quanto vendevano si è cavalcata l'onda in maniera piuttosto consistente. Invece per l'aspetto propriamente scientifico, quello che passava attraverso i cartoni, i film d'animazione giapponesi, i telefilm d'animazione giapponesi, in che maniera era in realtà frutto di un immaginario fortemente colpito dalla tragedia della bomba atomica, perché il Giappone da quando ha cominciato a produrre dopo la bomba atomica sono venuti fuori i Godzilla, i mostri preistorici, i robot mutanti e un'infinità di altre cose, immagino. Ecco, a noi com'è arrivato invece? Cosa ci è arrivato, a parte i pupazzetti che si cambiavano e diventavano delle automobiline? Beh, a noi è arrivato all'inizio soprattutto tramite l'immaginario robotico, che tra l'altro non fu accolto molto bene, per sempre anche per il discorso che facevate prima, si stigmatizzava soprattutto la violenza, ma non si capiva che poi quel tipo, a me neanche piace chiamarla violenza, perché poi era una legittima difesa di un paese, di un popolo che si sentiva in un certo senso aggredito, come era successo appunto con l'utilizzo delle bombe atomiche. Certo? Quindi la riscossa non poteva essere che tecnologica. Gli antichi dei del passato epico si trasformavano e diventavano oggetti tecnologici. Esatto, e Jig, per esempio, di cui prima abbiamo ascoltato una clip, ne è proprio un esempio lampante, perché c'è questo contrasto tra il passato costituito dai nemici Aniva che riemergono dal sottosuolo, dalle viscere del passato giapponese, e si scontrano appunto con quella che è la realtà giapponese dell'epoca, che è in mano invece a delle giovani generazioni. La cosa interessante è che nei cartoni animati giapponesi, magari soprattutto quelli di genere robotico fantascientifico, la speranza è sempre affidata a dei ragazzi e ai giovani a quali spetta di ricostruire un futuro migliore di quello che hanno ereditato. Sì, c'erano sempre, diciamo, queste compagnie di giovani, non soltanto nei cartoni animati, ma anche nei telefilm, che era sproporzionata la loro giovane età rispetto alle responsabilità che avevano addosso, che era totalmente alieno rispetto a quello che era la composizione e è tuttora la composizione della nostra società. E cosa ne pensa Marco Pellitteri, che è autore del saggio nel libro Storia dell'animazione giapponese, ma è anche un sociologo dei media? Beh, il contrasto che c'è in molte di queste serie giapponesi, specialmente in quelle di cui stiamo parlando adesso, cioè degli anni 70 e primi anni 80, è un contrasto, se possiamo dire, tra società organica e società meccanica. Quasi sempre i buoni sono legati tra loro da legami familiari o di amicizia, di solidarietà, e si scontrano contro un'organizzazione fortemente gerarchizzata, quella degli invasori, che siano dal sottosuolo o dallo spazio esterno, e quindi c'è già questa complessità in qualche modo filosofica di questo conflitto. Però capisci che arrivavano in un periodo storico in cui era messo in discussione ogni principio legato alla famiglia, alla tradizione, anzi era visto come pensiero totalmente reazionario, però inconsapevolmente diciamo molto di più dei discorsi e delle prediche dai pulpiti hanno fatto i cartoni animati giapponesi per ricostruire questo senso nella migliore delle sue accezioni. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. In Giappone e in queste serie, che comunque provenivano da artisti, autori con una loro filosofia non necessariamente allineata alla maggioranza politica dell'epoca, è stata una sorta di rivincita del fallimento del 68 giapponese, che al contrario che in Europa non colse alcun vero e proprio frutto. E non se ne accorse nessuno. E non solo, ma c'è anche comunque da dire che rimane in ogni caso la tradizione della cultura familiare, familistica giapponese e la caratteristica pietà filiale confuciana, o meglio neoconfuciana, che traspare sempre o quasi sempre nei rapporti tra padre e figlio, nonostante i contrasti. Quindi diciamo, in un momento in cui il laicismo era la cifra dominante, l'avversione al laicismo era in base a non ben precisati valori di trascendenza, di rispetto alla vita, in realtà le giovani generazioni, in una totale laica scelta, riacquisivano certi valori attraverso i cartoni animati giapponesi, tuttora lo stanno facendo. Adesso vi sottopongo un altro paradosso che a me ha molto divertito e è interessato. Vi ha fatto vivere divertenti avventure con Ponio e Totoro. Ora. Vi farà volare ancora più in alto. Parco Rosso, mettiti subito in volo. Un aeroplano rosso. Dal premio Oscar a Hayao Miyazaki. Allora, a me divertì molto quando finalmente arrivò in Italia Porco Rosso, con un'infinità di anni di ritardo rispetto a quanto fu pensato e prodotto dal maestro Miyazaki. Arrivò in un festival del cinema a Roma, probabilmente attizzava molto perché era un eroe, un pilota dell'aeronautica, era ambientato in una perfetta ambientazione dell'Italia in epoca fascista, perfetta anche nei minimi particolari delle città che hanno toccato. A me questo cartone me lo fece vedere piratato proprio Zoe Lacchè con molti anni di anticipo. Ti ricordi, Zoe? Assolutamente sì. E rimasi colpitissimo perché dico, come mai in Italia non è mai circolato un cartone che racconta una storia così bella, così affascinante, così poetica del nostro paese? Ma questo è un problema non solo di Porco Rosso nello specifico, che in più appunto per una volta va anche a mostrare le parti più belle dell'Italia, ma è successo per tutte le opere di Miyazaki, come per esempio lo scorso anno uscì Castle in the Sky, finalmente l'ultimo film di Miyazaki, ha solo 30 anni, pensa un po'. Mio figlio lo sgamò subito, dice ma questo è vecchio, guarda come fa, rimase delusissimo. Era veramente ed è tuttora una vergogna perché alcuni dei prodotti di Miyazaki ancora oggi non sono arrivati in Italia, e questa è una cosa assolutamente inspiegabile. Guido Tavassi, come te lo spieghi te? Autore, ricordo, e storia dell'animazione giapponese. Ma in effetti noi abbiamo scontato quello che è stato una sorta di ostracismo. Porco Rosso lo capisco, si parlava di fascisti, quindi hanno pensato che forse era meglio lasciare, anche se è fortemente... Beh, è marginale, diciamo sì, se ne parla, ma poi la storia... Anzi, lui è un eroe al di fuori di ogni ideologia, di ogni etichetta. Sì, in realtà noi dopo diciamo, la grande abbuffata degli anni 80, della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, l'animazione giapponese in televisione ha subito una sorta di ostracismo perché quella che fu una campagna di demonizzazione tutto sommato portò a segno i suoi colpi. Figuriamoci al cinema allora. Il cinema poi ha vissuto un periodo di crisi e lo vive tuttora in generale, quindi figuriamoci che tipo di appeal potevano avere questi cartoni, anche se qualcosa arrivò perché non si poteva non notare, ma mi riferisco a tutt'altre opere. Tornando alla questione di Miyazaki, sicuramente c'è stata una scarsa attenzione, anche perché noi abbiamo subito più di altri paesi un dominio culturale americano che ci ha impedito di guardare altrove. In Francia, per esempio, per dirne una, Miyazaki è noto, conosciuto e apprezzato da molto prima che non in Italia, ed è un paese appunto che magari rispetto ai modelli culturali americani ha resistito, parlo del cinema, molto meglio e con maggiori mezzi. Sai qual è? Che c'è una certa complessità nel portare ragazzi a vedere questi film ed essere di supporto a spiegargli nel contenuto. Sono film che vanno visti più volte, vanno interpretati, vanno compresi, richiede un bagaglio di cognizioni e di apertura mentale soprattutto da parte dei genitori che molte volte è difficile ci sia, richiedono impegno, hanno significato impegno nel produrli, nel farli, nel pensarli, c'è dietro una storia non soltanto di secoli ma millenaria, per leggerli e interpretarli ci vuole altrettanto tempo, ci vuole uno sforzo. Ci fermiamo soltanto un minuto, tra un istante. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog. la realtà condivisa. Qui Zanigata. Cosa dice? In quale albergo? Ma lei chi è? Ispettore, la prego, venga subito. Non c'è tempo da perdere. Fermo, Gaemon! Non fare scherzi! Lasciatemi morire, amici miei. È un'onta troppo grande per un samurai farsi rubare la spada. E soltanto con la morte si può cancellare il disonore. Oh, è stata colpa mia, senti, sei ubriacato! No, non è vero, Lupin. Non avrei mai dovuto farmi tentare. Ora devo pagare per la mia debolezza. Sono in tanti a ricordarsi Lupin, però è un cartone piuttosto intrigante. Non tutto si vedeva nelle nostre televisioni. Ci fu anche il fenomeno dei e criminali e inspiegabili tagli censori vennero fatti su queste serie. Stiamo parlando di animazione giapponese, ma in maniera più vasta e più lata, di cultura giapponese e di stimoli dell'immaginario totalmente nuovi, totalmente e radicalmente diversi a quella che è la nostra cultura occidentale, che sono trapelati in questi anni e stanno dando i frutti nelle ultime generazioni. Abbiamo come ospite Guido Tavassi, che è autore della storia dell'animazione giapponese, autore arte, industria e successo dal 1917 a oggi, con un saggio di Marco Pellitteri, edizioni Tunue. Tavassi, velocemente, la forbice del censore colpì spesso questi cartoni animati e il divertente poi è stato, quando arrivò YouTube, andarsi a rivedere le parti che ci avevano tolto, ci avevano censurato, che poi erano cose innocentissime rispetto a quello che normalmente circola nei siti internet. Sì, in effetti la censura ha una giustificazione abbastanza semplice e ne parlavamo prima. Quando si prende un prodotto culturale destinato a un pubblico più adulto, a un pubblico adolescenziale, e lo si tenta di trasmettere per fasce di un pubblico infantile, ovviamente ci si viene a trovare di fronte a degli ostacoli enormi. Cioè, Lady Oscar in sé non era proprio una serie da bambini. Ma non lo è per nulla. Infatti, è molto interessante, è molto avanti come messaggio, ma è una storia di amore lesbico fondamentalmente. Sì, sì, fondamentalmente andava spiegata, contestualizzata. Sono ecco. Storie di formazione, sono indirizzate fondamentalmente ad adolescenti. Mandarle per bambini dell'elementare ovviamente presenta non capivano, dei problemi notevoli. Ma anche proprio dal punto di vista della possibilità di farglieli vedere, ci sono degli argomenti che magari non, effettivamente non sono destinati a loro, ma questo è un equivoco culturale di fondo che è tutto nostro, non è certamente dei giapponesi. Questa è una cosa che volevo anche dire prima. In Giappone l'animazione, che ci tengo a sottolineare, è un medium, non è un genere, veicola contenuti di qualsiasi tipo ed è in fasce di pubblico estremamente variegate. Questo significa che non tutta l'animazione è destinata ai bambini e purtroppo noi qui abbiamo risentito di quel luogo comune che invece vuole l'animazione come un prodotto da destinarsi esclusivamente più. Diciamo che l'hanno recuperato quando sono cresciuti questi ex bambini attraverso la rete, hanno rimesso insieme il puzzle con le tessere mancanti, hanno capito in realtà quello che per loro era probabilmente molte volte una storia inspiegabile. Finalmente ti sei fatto vivo, Ken. Ero molto ansioso di rivedere la tua faccia, fratello. Te lo ripeto ancora una volta, decidi il posto dove vuoi andare a morire. Questa volta non hai scampo, è arrivata la tua ora. Uccidendoti salverò migliaia di persone innocenti. Io sono cambiato. Questo è Ken il guerriero, probabilmente non è fra i cartoni animati che guardava Federica, ma Federica ne guardava molti altri. Federica, buongiorno. Buongiorno. Federica è una studentessa universitaria, studia cultura giapponese, è stata anche in Giappone, ci tornerà adesso per la primavera, appunto, che è un momento molto particolare. Federica, tu appartieni a pieno titolo alla generazione che è nata con questi cartoni animati? Assolutamente sì, sin da piccola guardavo i cartoni animati in televisione, mamma non mi faceva vedere Ken il guerriero perché era troppo violento. È sempre la solita storia, certo. Sono nata con Sailor Moon e tutte le ragazze magiche che si trasformavano ai tempi di quando ero piccola. Ecco, cosa è accaduto? Per cui a un certo punto, questo non l'hai messo nella valigetta dove si mettono le bambole, i giocattoli di ragazzina, ma anche crescendo sei continuata a rimanere fortemente attaccata a questo immaginario. Qual è stata la molla? A 11 anni, andando al mare, andai al giornalaio e comprai per sbaglio un fumetto giapponese. E da lì partì la passione, finché mio padre non trovò su internet una fumetteria vicino casa, e da lì cominciai a collezionare fumetti, tanti, tanti fumetti, finché mia madre, stufa di vedere solo fumetti, decise che forse era il caso di rendere la passione un po' più utile, e quindi a 15 anni mi iscrisse a un corso di giapponese qui a Roma. Quindi tu stai studiando giapponese da quanti anni, lingua giapponese? Allora, io ho studiato giapponese dai 15 ai 17 anni, e poi un anno sono andata un mese a Tokyo a completare lo studio. Senti, è vero che ci sono molti ragazzi italiani che vanno in Giappone come magari le loro mamme o le loro zie andavano a Londra o si immaginavano dei viaggi fantastici nei luoghi che sembravano al centro di tutto l'immaginario, della musica, delle mode, delle tendenze? Sì, però il Giappone non è come Londra. Cioè non è dietro l'angolo, certo. A parte quello, è proprio una mentalità diversa, forse l'Inghilterra e anche l'America si avvicinano di più a uno spirito mentale europeo che il Giappone, cioè il Giappone è completamente diverso, ti devi adeguare, hanno un'educazione completamente diversa. Senti, come fai te a vivere adesso, e socializzare, avere una vita sociale per una così differente punto di vista rispetto anche ai tuoi coetanei? Studiare il giapponese, sognare di andare in Giappone, leggere la letteratura giapponese, quando magari i vostri coetanei sognano di andare amici di Maria De Filippi, oppure sognano di mettersi quel vestito all'ultima moda, o di rifarsi magari qualcosa, ridarsi una ritoccatina quando cominciano già a avere la tua età. Tu hai 20 anni, quanti anni hai? 21 anni, ecco, se sei ancora una ragazzina, però già con un preciso indirizzo, mentre la maggior parte dei tuoi coetanei ancora sono lì che vagano, non sapendo bene da che parte prendere i punti di riferimento. Tu almeno lo sai. Beh, studiare giapponese è sicuramente una cosa complicata, però mi ha sempre dato tante soddisfazioni, cioè riuscire ad andare in Giappone e sentirsi dire che sei brava a parlare giapponese comunque è una soddisfazione che ti spinge ad andare molto avanti. Infatti non avrei mai pensato a 15 anni che i miei studi mi avrebbero aiutata ad intraprendere un percorso universitario per poi fare il lavoro che mi piacerebbe. Ecco, cosa sogneresti di fare te da grande? Me per ora piacerebbe andare 5-10 anni in Giappone e insegnare l'italiano in Giappone o fare corsi di cucina in Giappone, perché comunque i lavori che i giapponesi vogliono dagli stranieri sono lavori che non intraprendono, lavori d'ufficio, perché per loro per quello ci sono già giapponesi. Qui tu hai già un'idea imprenditoriale ben precisa, hai capito qual è la domanda? In Giappone hanno bisogno di italiani, perché loro hanno tutta una mitologia degli italiani, c'è un famoso personaggio della televisione giapponese che è italiano, e gli piacerebbe qualcuno gli insegnasse la cucina giapponese, quindi ti sei rimboccata le maniche, studi il giapponese, studi la cultura, hai fatto una tua passione una probabile anche sbocco professionale, e questo è interessante. Cosa ne dice Marco Pellitteri di questa testimonianza? Beh, è una testimonianza quasi esemplare, perché c'è un nuovo fenomeno, diciamo così, legato all'influsso dell'immaginario giapponese nei contesti europei, che è quello innanzitutto del turismo culturale. Ci sono anche degli studi su questo argomento, ci sono molti ragazzi, gruppi di ragazzi che vanno in Giappone a scoprire o riscoprire i luoghi nei quali presumibilmente i loro eroi dell'infanzia, della gioventù, si sarebbero mossi, no, nelle serie animate. E poi c'è anche appunto questa sorta di risalita delle rapide culturali che dagli anime, dai fumetti, arriva fino a inventarsi in qualche modo una professione, uno stile di vita legato proprio a questo immaginario. Ecco, lo fermati un secondo, lo so per conclusione sentire Davide Bitti, buongiorno. Buongiorno, salve. Però per completare un quadro, hai sentito la ragazza Federica che parlava? Sì, ho appena sentito la sua testimonianza. Ecco, tu hai lavorato in Giappone, sei un italiano, hai lavorato in Giappone, eri a Sendai quando c'è stato lo tsunami. Quindi... Io più che lavorato ho fatto, durante il mio corso di laurea magistrale, appunto in lingue occidentali orientali alla Sapienza, sono andato a Sendai, alla Tohoku University di Sendai, come studente di scambio per un anno. E quindi stavo in Giappone, stavo esattamente nella città di Sendai durante l'anno 2010-2011, e ho avuto sulla mia pelle l'esperienza anche del terremoto dell'11 marzo. Ecco, tu trovi che proprio in conclusione di quello che abbiamo detto fino adesso, da quella che è una passione casuale nata per un escamotage per riempire dei canali, televisioni commerciali di prodotti a basso costo, che in realtà ha seminato una passione, ha seminato un'attenzione. Può essere seriamente considerato come un filone culturale che può solo far bene al nostro paese? Beh, quello sì, devo dire la verità, il manga e anche gli anime hanno dato una grande mano a far conoscere il mondo giapponese in Europa e soprattutto in Italia. E anche io personalmente ho iniziato a studiare il giapponese comunque come portato da questa passione. Però si fa anche un grande errore, secondo me, di vedere il Giappone soltanto come una fabbrica di anime e manga, senza poi andare ad approfondire la vera cultura giapponese, anche a livello di lingua, a livello di letteratura, di storia. Beh, il fatto ci sono ragazzi che autonomamente si vadano a studiare il giapponese quando potrebbero andarsene a spasso, fa pensare che qualcuno questo ragionamento lo stia facendo. Sì, sì, sì, quello sicuramente sì. L'importante comunque mantenere questa passione per fumetti e cartoni, ma anche poi comunque non pensare che sia soltanto quello, coltivare questa passione e vedere tutti gli altri lati del Giappone che comunque hanno forse anche più fascino, secondo me. Siamo arrivati in conclusione e questa è proprio veramente l'ultima puntata del 2012. Piacere farla lasciando l'idea che un filone culturale, un modo di vivere, un'attenzione alla diversità rispetto a quella che era la tradizione millenaria della propria famiglia venga proprio da una cosa futile come il fumetto, come il cartone animato. A presto.